direttamente dal Buon Humor Studio con tutto il team sistematico. Sony Produzione RA sui compressori, al microfono giù con me Mary, diglielo com'è, lo sai com'è. Freaky Frankie Flow on the microphone, you know. 2009 1M la best, diglielo. Oh, com'è? Hey, adesso fatemi parlare. Hey, io ho bisogno di parlare. Hey, sei numero 5, Freaky Frankie Flow. And it goes like this. È tutto così facile, cerco di starne fuori. Sono falsi gli amori e tutto mi fa male, tutto mi fa male. Sento le fitte dentro il cuso, troppi dolori. Sfogo nelle canzoni, ma io non so cantare, io non so cantare. Ok, tutto a posto, un pensiero che mi schizza. Non butto il mio cuore nel cesso per un'amicizia, accanto street life. Sono un criminale, ma sto attento a come parlo, se no qui mi fanno male. Sfogo i miei dolori in mille sigarette, tra conne strette e risate con le amichette. Brucio un capitolo con un nodo in gola, e sto attento a non toccarlo perché cazzo scotto ancora. Io non capisco, dici che ami me, ma il primo che passa è più importante di me. Prendo le distanze, lo so, lo faccio per me. Se tu non capisci la sofferenza che c'è, voglio sapere come comportarmi. Non so cosa pensare, vorrei parlare meno per sfogarmi, ma io non so parlare. È tutto così falso e cerco di starne fuori. Sono falsi gli amori e tutto mi fa male, tutto mi fa male. Sento le fitte dentro il cuso, troppi dolori. Sfogo nelle canzoni, ma io non so cantare, io non so cantare. Ok, tutto a posto, ma non fatemi parlare. Qui più fa caldo, più lo stomaco fa male. È troppo amorevole, è una dolcezza cenere. Solo la calma di chi non ha un cazzo da perdere. E così pure tra gli scarti, perché siamo tutti grandi eroi con i problemi degli altri. Siamo mediocri, gente senza stile, ma per trasformarci basta un profumo femminile. Ridicoli, sto mondo è uno strazzo. Ti chiamano interessato agli altri se non te ne fotte un cazzo. Ed è retorica, un limite reale, ma la virtù è essere semplicemente banale. E non è che sono infame, ma accuso dolori come fonti di mille lame. Sono un vero bastardo perché odio gli eroi. Sono una carogna e vi aspetto a voi. È tutto così falso e cerco di starne fuori. Sono falsi gli amori e tutto mi fa male, tutto mi fa male. Sento le fitte dentro il cuso, troppi dolori. Sfogo nelle canzoni, ma io non so cantare, io non so cantare. Adesso dimmi come mai io non riesco a darmi una spiegazione possibile, nessuna fonte attendibile. Baby, voglio sapere come mai, che cosa è mai successo a noi. Tutto quello in cui credevamo era così facile, non può essere. Se ogni cosa mi riporta a te, vorrà dire che c'è odio che sale, un sole che muore, dai, l'ho getto fuori da me, riassunto in parole, ma io non so cantare. È tutto così falso e cerco di starne fuori. Sono falsi gli amori e tutto mi fa male, tutto mi fa male. Sento le fitte dentro, accuso troppi dolori. Sfogo nelle canzoni, ma io non so cantare, io non so cantare.